Uno sconto così? Non te l'aspettavi, eh? Dal 21 al 25 febbraio arrivano i Club Days a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet. Meno 20% extra sui saldi di articoli selezionati. Solo per gli iscritti al MacArthur Glen Club. Registrati ora e risparmia alla grande. Ti aspettiamo alla Reggia Designer Outlet. Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. Continua il nostro viaggio tra le anime ribelli, anzi, per dirla tutta, qui ci spostiamo proprio nella valle dei cani ribelli per eccellenza. In questa valle Francesca e i suoi colleghi e compagni di viaggio hanno dato vita ad un posto appunto rivoluzionario, che però appoggia le basi su radici forti e coraggiose, senza lasciare nulla al caso. I Riot Dog sono esseri ovviamente straordinari, come straordinario è il posto che andremo a raccontare. E allora ascoltiamo insieme l'episodio. Bentornati amici di Paucracy, siamo qui con Francesca Suppini, istruttrice cinofila e presidentessa dell'associazione Riot Dog Onlus. Ben arrivata Francesca. Ciao, grazie. Grazie a te per essere qua. Allora Francesca, dici un po', raccontaci che cos'è Riot Dog Onlus e com'è nata l'idea di mettere su questo progetto? Allora, Riot Dog è essenzialmente un rifugio per cani, con un approccio libertario e antipsichiatrico, cioè, ovvero, anche se non lo voglio definire rifugio, è un luogo dove sperimentiamo una convivenza tra due specie differenti che vedono il mondo in maniera differente a seconda della propria specie. Come è nato? È nato più o meno nel 2014, mi pare, e io vengo da un percorso di battaglie antispeciste per la libertà di ogni essere vivente. E intorno al 2014-2013 ho iniziato ad approcciarmi al mondo cinofilo a causa di una cagna che ho con me tuttora e con cui ho avuto determinati problemi. Quindi mi sono approcciata a questo mondo che avevo sempre visto in maniera un po' addestrativa, no? Quindi non, differente da come poi può essere in realtà. Okay. E quindi ho iniziato questo percorso per diventare prima educatrice, poi istruttrice cinofila, e mi sono accorta che in realtà c'è anche tutto un altro mondo in cui noi spesso ci arroghiamo, no? Di conoscere gli animali solo perché magari ci stiamo assieme, ci conviviamo, ma poi magari non sappiamo nemmeno che hanno una comunicazione molto diversa dalla nostra, che vedono il mondo in una maniera completamente diversa. Adesso parliamo nello specifico dei cani, i cani vedono il mondo noi attraverso gli occhi e loro attraverso il naso, no? Quindi l'olfatto. Mm-hmm. Quindi è un mondo proprio differente, come viene interpretato, come viene vissuto e come viene visto. E quindi conseguentemente al percorso per diventare educatrice mi sono approcciata al mondo dei canini. E mi sono accorta spesso di quanto i canili possono essere accomunati a figure come le carceri, i manicomi, a volte anche gli ospizi per anziani. E diciamo che questi cani vengono etichettati come o troppo problematici, troppo vecchi, oppure anche semplicemente scomodi alla nostra società. E la nostra società è impostata completamente sul controllo, tutto quello che non esula dalla normalità, quella che almeno noi definiamo normalità, diventa scomodo e va rinchiuso in posti che sono luoghi, ma in realtà sono non luoghi, e chiusi lontano dagli occhi delle persone che mandano avanti questo ingranaggio, no? senza pensare e mettersi questo tipo di problemi. Diciamo che così non li vediamo e in qualche modo ci mettiamo una pietra sul cuore, in qualche modo. Chiarissimo. Esatto, come poi sono gli allevamenti intensivi per gli animali definiti da reddito, che sono rinchiusi in spazi angusti, e anche i macelli non vengono, ovviamente i video solitamente, no, vengono pubblicati video di animali che sforazzano liberi nell'erba, tutti felici per pubblicizzare magari un prodotto di consumo animale, no, oppure carne, surrogati. Ma come appunto i manicomi e altri luoghi di detenzione, che sono di per sé luoghi di contenimento, no? Non sono luoghi di riabilitazione, e anche se lo fossero ce ne sarebbe da cui parlare. E quindi soprattutto poi i cani, in questo caso parliamo di cani, si trovano rinchiusi in spazi che per lo più sono fatti di cemento. E inadatti proprio alla specie, alle caratteristiche di specie, utili esclusivamente per rendere facile il lavoro dell'operatore nella pulizia, nel controllo magari delle malattie, anche se poi spesso non è così, e nella gestione, quindi una gestione fatta in serie. È chiaro. Senti, come sei riuscita tu a far nascere e a far crescere questo splendido posto in cui adesso ti trovi, di cui andiamo poi a raccontare? Allora, come mi sono trovata? Io appunto mi sono trovata stando nei canili a non trovarmi a mio agio, non riuscivo a capire come si potesse creare una relazione con un individuo, iniziarci un canale relazionale per poi doverlo richiudere in uno di questi non luoghi. E quindi abbiamo nel mentre ho iniziato sempre appunto con questo approccio. Avevamo già, io vivo qua da 20 anni, e questa possibilità di avere questo spazio esterno in un luogo lontano da strade asfaltate, e ho sentito appunto la necessità di impostare una situazione in una maniera più libertaria. E abbiamo iniziato nel 2017 a metterlo in pratica. Inizialmente appunto non è facile, perché abbiamo sperimentato, io ho lavorato in diversi canili sia in Italia che in Spagna, per capire appunto come poterlo mettere in pratica. Non dico che Riot sia per forza il progetto migliore in assoluto, ma ogni progetto in sé ha delle caratteristiche che lo possono valorizzare. E di base bisogna anche un po' adattarsi. Anche noi abbiamo del vicinato, la libertà totale purtroppo non è possibile completamente. E niente, insomma, quello che vorremmo fare è mandare un'idea di un immaginario differente. A questo proposito ti chiedo come funziona il percorso di inserimento del cane che arriva presso la vostra struttura, e come arrivano a voi i cani, se è possibile saperlo, e poi come viene valorizzato ogni vostro ospite. Allora, i nostri cani principalmente vengono da canili, sia del nord ma anche del sud Italia. E cerchiamo di collaborare esclusivamente con persone di cui ci fidiamo, che conosciamo personalmente, o con strutture che abbiamo conosciuto personalmente. Quindi di base viene fatta una valutazione preventiva del cane, perché comunque una struttura come la nostra, in cui i cani vivono in gruppi sociali, non è adatta a tutti i tipi di cani. Se pensiamo a cani appunto con una genetica molto competitiva verso i propri simili, non è una, diciamo che non è un luogo che potrebbe farli stare bene. Quindi ci concentriamo un po' di più con cani che possono trarre beneficio dalla vita comunitaria, possono appunto crescere in questo modo. E quindi quando c'è questa valutazione preventiva che ci dà modo di capire, o fatta da noi o fatta da istruttori e educatori di cui ci fidiamo, ci dà modo di capire se in che momento e in che recinto il cane può arrivare qui. Quindi c'è un tempo di attesa. Quando il cane arriva, non sa, spesso, sai, tutti i prognostici che facciamo, che pensiamo, a volte cambiano, perché il cane a seconda del contesto cambia con noi. Quindi l'inserimento è graduale. Noi inizialmente sospendiamo il giudizio nell'inserimento di un cane, perché a volte proprio anche, soprattutto, anzi ti direi, i cani che per me sono più fighi in assoluto, i primi tempi hanno bisogno di testare, quindi a volte anche di rompere i coglioni abbastanza, e sono di solito cani poi che si dimostrano un po' più forti, più tenaci, e anche quelli che hanno tanto da dire. Quindi invece si spende il giudizio inizialmente, perché ci sono tanti momenti in cui il cane deve testare, capire chi è, quale ruolo assumere nella nuova situazione. Dopodiché iniziamo a capire, e a volte appunto pensavamo di metterlo magari in un recinto, invece proprio per loro scelta magari finiscono in un'altra situazione, in un altro recinto, in un altro gruppo familiare. Quindi poi iniziamo a crearci un canale relazionale. Quando si crea un pochino di fiducia, iniziamo a fare delle esperienze anche in altri ambiti, in altri esterni. Poi se il cane deve purtroppo per forza essere abituato a determinate, diciamo, costrizioni, come possono essere la pettorina, il guinzaglio, il salire e scendere dalla macchina, però ai fini dell'adozione spesso è necessario. Però diamo modo al cane di avere il tempo per ambientarsi, di fidarsi di noi e di capire in che modo puoi strutturare questo piccolo percorso. Okay. Alcuni cani a volte bisogna anche un pochino tirarli fuori dal guscio, perché se no se li lasci nella loro zona, parlo principalmente di cani magari che hanno un po' di diffidenza nei confronti delle persone, vanno un pochino stimolati, perché se li lasci sempre troppo nel loro guscio poi si creano la loro zona di comfort insieme agli altri cani e finisce che si fa fatica ad entrarci in relazione. Quindi a volte noi poi turniamo i cani che vivono in casa con noi, giardini insieme ai nostri cani, e li alterniamo tra recinti a casa, in modo proprio da creare anche un pregresso in un ambiente casalingo e anche una filiazione maggiore. Perfetto. E invece ci vuoi raccontare un po' come viene gestito l'iter adottivo? Io ho visto nei vari video e nelle varie, diciamo così, notizie che vi riguardano, che avete una struttura ricettiva che vi supporta e vi aiuta a dare sia al cane che all'adottante un posto speciale in cui potersi incontrare. Questa mi sembra una cosa stupenda, io l'ho trovata una cosa fantastica. Vuoi raccontarci qualcosa di questo? Certo, allora innanzitutto l'iter adottivo varia ovviamente da situazione a situazione, da cane a cane, no? Ci sono cani che sono prontissimi ad andare in adozione immediatamente, o persone che vivono nelle vicinanze o conosciute, per cui il processo è molto più breve. Ci sono cani oppure necessità delle adottanti che portano il percorso a diventare un pochino più lungo, e a questo caso cui ti riferisci tu sono magari persone che vengono da un pochino più lontano, quindi non hanno modo di fare un percorso. Magari venire una volta a settimana o due volte a settimana a conoscere il cane. Spesso sono anche persone che hanno con sé già un altro cane, noi si rivolgono spesso persone che hanno già un cane, proprio per fare le cose con calma, per far sì che i cani possano scegliersi tra di loro e non sia una forzatura inserire un nuovo cane nell'ambiente casalingo, che questo cane non si veda prevaricato i propri spazi dall'oggi al domani. Quindi abbiamo un'amica, una collaboratrice che ha un agriturismo a 10-15 minuti da qua, è un posto proprio bellissimo, nel verde, l'ultima proprio casa della, dove poi ci sono solo boschi, quindi avrebbe anche un appartamentino in cui si possono sperimentare, se una persona viene da lontano, le prime volte anche la condivisione di uno spazio più piccolo, come può essere l'appartamentino, la casa. In più questa collaboratrice è anche educatrice cinofila, i nostri cani spesso conoscono già l'ambiente, quindi e la persona, quindi non è una cosa traumatica per i cani, è un'esperienza in ogni caso che li va a formare e ad apprendere qualcosa. Molto bello, secondo me è diciamo così una cosa stupenda, veramente. Sì, anche si dà modo anche alla persona che vuole adottare un cane di il momento dell'adozione. Di vivere un'esperienza come un po' una vacanza, quindi si vive anche dai anche molto credito a quel momento, no? Che non deve essere visto come un pacco che arriva in casa, ma come un'esperienza proprio sotto tutti i punti di vista, e da modo anche di essere meglio il cane in tutti i suoi aspetti. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che è anche un modo per rendere sicura, tra virgolette, la conoscenza e l'adozione, viva Dio, insomma, dopo aver parlato tanto anche in Pocrasi di staffette, insomma, finalmente un iter adottivo da sogno. Pensa che da poco è venuta anche una ragazza che già conoscevo perché mi ha fatto il corso educatori assieme, poi non ci sentivamo allora, dal Belgio. Il Belgio in macchina con il suo cane per conoscere i cani qua, si è fermata in agriturismo un po' di giorni per conoscere, poi è ritornata. Quindi, a proposito di staffette, questa ragazza dal Belgio è arrivata fin qui per poter appunto fare questo tipo di esperienza, e credo che sia una cosa più unica che rara. Speriamo che diventi una cosa meno rara, insomma, però assolutamente fantastico. Sicuramente il viaggio sarà valso la pena, assolutamente, credo. Come sono strutturati gli ambienti vissuti dai vostri ospiti e da voi? Perché mi pare di capire che comunque vivete in questo posto insieme a loro. Esatto, noi in questa casa colonica di campagna, cambiamo tre ettari di spazio esterno, anche se poi lo spazio sfruttato dai cani, diciamo che abbiamo scelto lo spazio più pianeggiante per creare la struttura. E tendenzialmente viviamo qua in quattro, qui ci sono altri collaboratori e ci sono i cani, non sono mai chiusi in un box, hanno delle casette tipo bungalow in legno con dei recinti, non posso dire la metratura, comunque sono circa 10 per 15 metri l'uno, poi variano anche un po' di misura, hanno poi un cancello che dà lo stradello su cui poi noi li facciamo uscire, li portiamo in passeggiata, e dall'altro lato hanno un altro cancello che li dà su un'area a sgambo che comunque è quasi sono 7000 metri quadrati, che prende anche una parte di bosco. Quindi spesso i cani, non tutti, però tendenzialmente la maggior parte, sono durante il giorno aperti in quest'area di sgambamento che ha adesso anche una piscinetta, delle zone d'ombra, il boschetto, eccetera. Quindi a volte proprio noi facciamo dei recinti e poi sono i cani che scelgono con chi vivere e dove vivere. A volte inaspettatamente si creano degli abbinamenti che inizialmente con appunto coscienza non avremmo pensato potessero essere utili, e invece non è assolutamente detto, perché con i cani pensiamo che se un cane più fragile, più insicuro, ha bisogno della guida di un cane forte. Invece a volte non è detto, a volte in questo modo magari diventa un po' succube dell'altro cane. Alcuni cani invece hanno voglia di prendersi il ruolo, anche se sono un po' insicuri, se si prendono il ruolo di cane, si prendono in gestione un altro cane, poi tirano fuori una personalità che mai avremmo pensato. Quindi diciamo che poi possono sperimentare sia la convivenza e sceglierla anche, perché non forziamo i cani a convivere se non hanno voglia di farlo, sia anche un discorso proprio impostato sulla libertà. Tutti i cani, una volta al giorno, a parte qualche caso che obiettivamente non tutti i cani purtroppo possono stare liberi, però diciamo che tra tutti quelli che abbiamo adesso ce n'è solo una che è purtroppo un'anziana cagna da caccia che non ci dà l'idea che torna molto facilmente. vengono prima appunto inseriti e poi dopo, appena sono un attimo, hanno un po' di confidenza con noi, vengono attestati in libertà con il GPS e a volte proprio spesso escono tutti i giorni in gruppo per un 40 minuti, un'oretta al giorno, li portiamo a fare i bagni nei laghetti, fanno i giri nei boschi, eccetera. Ma a volte proprio la cosa interessante è che prima dell'approccio a tettorino e guinzaglio viene prima un discorso di libertà, proprio perché di base cioè, ci deve essere una fiducia anche per concedere il guinzaglio. E a volte si passa prima, molto spesso, si passa prima dalla mi fido, vengo con te in libertà, capisco cos'è la passeggiata, per poi passare a un spesso inevitabile discorso di guinzaglio. Veramente molto, molto importante questo aspetto, anche inaspettato, no? Perché comunque molto spesso anch'io da volontaria magari ho sempre visto, valutato e comunque osservato che sì, il rapporto di fiducia ok, però non si esce senza pettorina, impensabile, insomma, anche perché nelle strutture dove purtroppo dove faccio volontariato io è difficile poi uscire veramente in libertà, quindi veramente molto interessante. Allora, abbiamo molti cani, diciamo, definiti anche ferali, semiselvatici, e con questi soprattutto è importantissimo perché altrimenti fai creare dei traumi se li porti subito forzati al guinzaglio. E soprattutto ovviamente un attimo che si sono ambientati al contesto, diciamo che li liberiamo appena arrivati, certo. Ma a loro sono quelle che veramente si allontanano meno in assoluto, anzi a volte devi anche un po' abituare al fatto della passeggiata, se no sono un po' impauriti e questo li crea anche un buon modo di mappare l'ambiente, quindi conoscenza in più, quindi più sicurezza nel muoversi, molto importante per questo, soprattutto per questo tipo di cani. Molto interessante. Allora, Francesca, io immagino che la tua strada per arrivare su questa stupenda collina, seppure piena di soddisfazione, sia stata sicuramente ricca di ostacoli. Eppure io vedo in questo progetto il risultato di quello che auspico sempre di più nel mondo del volontariato cinofilo, ovvero la consapevolezza che un altro tipo di canile è possibile e la possibilità di saper collaborare per un bene comune. Quali sono gli obiettivi che vi ponete nel prossimo futuro? Allora, gli obiettivi, sì, in generale non è facile, diciamo, lottare contro un immaginario che vede il cane, almeno qua in Occidente, come per forza servito all'uomo. Quindi il nostro obiettivo è cercare di far capire che le soggettività sono tante, i contesti sono tanti e i cani non per forza devono stare a fianco all'uomo per essere felici, anzi loro hanno tutta una loro socialità, una loro vita che purtroppo a volte gli viene negata proprio da questi preconcetti molto anche in voga, no, nel mondo del volontariato, per cui un cane, una cucciolata per strada è per forza destinata a star male. Magari appunto di questa cucciolata non si salveranno tutti, ma d'altronde i cani, come altre specie, fanno tanti cuccioli proprio perché la mortalità è più alta, ma è una cosa che noi dobbiamo accettare, come l'accettiamo per altre specie, non si capisce perché per i cani non possiamo accettare questo. E quindi vorremmo ribaltare un po' questo concetto in cui anche l'uomo viene visto come salvatore, l'essere umano volontario viene visto come salvatore, che consideriamo un concetto molto antropocentrico. Cioè, l'uomo non salva niente, al massimo aiuta a limitare i danni che facciamo. Vorremmo ribaltare un po' il concetto in cui gli animali, umani e non, possono convivere in libertà. Magari è un'utopia, probabilmente lo è, però ci piacerebbe che si creassero diverse realtà in cui, appunto, è ovvio che un cane abbandonato dal proprietario che ha sempre vissuto in casa non potrà stare bene per strada, ma ci sono tante altre realtà nel mondo, ce ne sono centinaia in cui i cani vivono benissimo nel loro gruppo sociale. Noi dobbiamo intervenire il meno possibile. Quindi i nostri cani non devono essere, cioè noi cerchiamo di mandare anche un immaginario, anche in forma grafica, in forma anche di appelli per le adozioni, in cui i cani non vengano visti come poverini da salvare da qualche parte. E questo serve solo poi a, diciamo, a lucidare, no, il nostro ego. Ma cerchiamo di fare in modo che escano le personalità, quindi personalità differenti, tutte con una storia da raccontare, con dei desideri da esprimere, e vorremmo ribaltare lo stereotipo anche del cane definito problematico. Quindi ci stiamo un pochino anche battendo sul, anche purtroppo spesso quando ci sono delle idee che possono essere buone anche in cinofilia, come in qualsiasi altro ambito, come le adozioni consapevoli ad esempio, vengono poi interpretate ognuno a proprio modo. Quindi ultimamente ci stiamo un pochino battendo su sull'adozione, che non deve essere per forza un'adozione perfetta, ma siamo tutti imperfetti, quindi di cercare di sì trovare il contesto, la situazione giusta al cane, ma cioè quello che viene portato avanti come adozione consapevole non deve essere scegliere il cane perfetto che non ti darà mai un problema, ma deve essere un cane con cui posso creare una relazione solida basata sulla fiducia, in cui possiamo crescere insieme in un modo o nell'altro, perché i problemi vanno a braccetto con le relazioni, e l'unico modo per crescere in qualsiasi relazione, sia con la nostra specie che con un'altra, è quello di sapere affrontare i problemi e di aver voglia di affrontarli assieme. Quindi insomma, diciamo che vediamo il cane, ci piacerebbe vedere il cane partendo da questa specie, ma si potrebbe fare anche con qualsiasi altra specie, come anche un vettore di cambiamento, no, della nostra società. Cioè un ritorno anche ad ascoltare più noi stessi, la nostra vera natura, un ritorno a riapprocciarci con la natura e a sentire, ascoltare di più le nostre sensazioni, perché anche se uno non ha studiato, uno non ha fatto corsi di cinofilia, dentro di sé un pochino in parte c'è ancora quella cosa di capire quello che gli dice un cane, e sa se approcciarsi magari o meno, o se la prima volta che ho visto una vipera ho fatto un salto che mi si è girata la schiena, nel senso, però con le bisce non mi capita. Cioè dentro di noi abbiamo un'idea di quello che è pericolo o non è pericolo. Sì. E di riuscire a approcciarsi un po' di più anche a quello che sentiamo, renderci conto che noi sappiamo poi anche un po' muoverci se impariamo ad ascoltarci. Interessante. Molto interessante, anche perché comunque sì, molto spesso magari vedi proprietari o persone che magari si approcciano ai cani, che cercano di interpretare la loro comunicazione, e spesso sono molto fantasiosi, quindi insomma, però è veramente veramente interessante questo aspetto. E secondo te, Francesca, i canili, come sono strutturati nella nostra società, possono essere una risorsa? Allora, ci sono sicuramente tantissime realtà, io ne conosco solo sicuramente una parte, e ci sono sicuramente dei canili che nonostante la struttura riescono a lavorare bene, che hanno un buon team, e hanno un buon modo di relazionarsi e che fanno tante adozioni. Di base, per me la struttura, proprio come indicata canile, anche noi ci siamo dovuti battere proprio per il fatto che non avessimo appunto posto in cemento, isolamenti, eccetera, era proprio per l'ASL una cosa inconcepibile. Cioè proprio, ma non lo capivano, non è che non volessero, è proprio non capivano come potesse essere possibile. E quindi le strutture, secondo me, sono assolutamente inadatte, le strutture proprio nella specie, e anche perché appunto dicevamo che il cane si approccia al mondo attraverso l'olfatto, quindi una sovrappopolazione di cani in uno stesso ambiente porta a un surplus di odori che si diffondono, quindi uno stress maggiore, gli spazi non sono sufficienti per poter esprimere la loro comunicazione e le loro distanze. I cani, come sappiamo, comunicano sia a livello olfattivo sia attraverso l'utilizzo dello spazio, e quindi diciamo che come sono ora strutturati nella propria fattispecie, per quanto ci siano spesso delle persone molto in gamma che gestiscono questi canili, non sono adatti al recupero psicologico di un cane, che comunque non ha scelto di essere lì. E diciamo che forse la vera domanda è: sono poi per forza così necessari i canili? Perché anche se qui appunto non cerchiamo di appunto avere un contatto diretto, un po' familiare con il cane, e cerchiamo di lasciarlo decidere il più possibile, una gabbia seppur dorata resta sempre una gabbia. E quindi quello che ci auspichiamo è magari la nascita di situazioni differenti, che possono essere le più svariate, come anche in piccolo, cioè far sì che magari non sia per forza una struttura come un rifugio a prendersi carico dei cani, ma potrebbero essere anche delle persone fisiche, private, che hanno un terreno, che decidono di occuparsi di 3 o 4 cani forastici, semiselvatici. Quindi piccole esperienze di condivisione, multispecie, di convivenze differenti. Ci possono essere sì rifugi in cui si portano avanti le adozioni, ma anche altre soluzioni per alcuni cani che invece magari hanno un po' condici di adottabilità, e piuttosto che ammassarle tutti in un unico spazio, riuscire a far sì che diventino una risorsa comune, no? Non per forza che siano a carico di una struttura. E quindi provare anche a fare, cioè promuovere questa cosa che ci aspettiamo sempre che siano le istituzioni a risolvere i nostri problemi, i problemi che si creano da questa società, ma in realtà potremmo iniziare, senza dover strafare nel nostro piccolo, a essere parte comunque di questo cambiamento. Mi sembra un ottimo punto di partenza. Ci vuoi raccontare qualche storia di cani ribelli che hanno trovato la loro strada? Sì, guarda, te ne potrei raccontare tantissime. Diciamo che potrei brevemente raccontarti la storia Nuki. Nuki è un cane per cui diciamo che il suo merito, come tanti cani che hanno cambiato il corso della mia vita e la vita, però in realtà di anche di tante persone, quando ti trovi davanti magari a un cane che ti mette in croce, a volte poi è stato il cambiamento e ti fa prendere delle strade che mai magari avresti pensato. Io non pensavo di fare qui in Rabbit Dog, pensavo di farlo tra l'altro in Spagna o comunque in una zona molto più isolata. E Nuki è un cane in cui stavo in cagnolo di Molfetta, ed è entrato questo cane che era, diciamo, pazzo, fuori di testa, si strappava pezzi di coscia fino all'osso, aggrediva se stesso come fosse un nemico. E quando ho iniziato, insomma, a conoscerlo un attimo, poi quando sono andata via da Molfetta, io in quel momento vivevo in camper, era un paio d'anni che facevo esperienze in camper con i miei altri 3 cani, non ce l'ho fatta a lasciarlo lì, quindi l'ho caricato in macchina, in camper, e me lo sono portata qui. Ovviamente doveva tenere una mia amica in stallo, ma ha morto subito, e quindi io mi sono trovata a dover dire: ok, ora cosa faccio con questo cane? Quindi mi sono trovata a ritornare in questa casa, che era un paio d'anni che avevo abbandonato. In realtà avevamo pensato di venderla per poi trovare un terreno magari un pochino senza case vicino, e quindi sono tornata a stare qui. Quando sono tornata a stare qui, lui è cambiato, si è rilassato, non ha mai più morso, ha trovato adozione. E io mi sono accorta che forse questo progetto potevo farlo qui. E quindi ho detto: le difficoltà si affrontano una per volta, se il vicinato è un problema, troviamo il modo di affrontarlo, tanto in qualsiasi situazione ci sono delle difficoltà. Sì. E quindi è andata così. Un altro esempio che mi viene sono 2 cani, di quello che parlavamo prima, che mai avrei pensato di mettere insieme nello stesso recinto. Uno è Travis, che è un setterino che era considerato un cane inadottabile, e uno aveva delle ansie fortissime, delle fobie fortissime di qualsiasi tipo, e anche lui l'avevo conosciuto in canile, e tanto che non pensavano di darlo perché era un cane che sarebbe scappato, si sarebbe nascosto, sarebbe morto, insomma c'erano tutte i preamboli per cui le cose sarebbero andate malissimo. Però io mi sono un pochino affezionata e a un certo punto ho deciso che sarebbe arrivato qui. E Margherita, che è un'altra cagna con dei problemi di grosse fobie, che per cui non usciva neanche più in passeggiata, e lei stava a Milano, una mix pastora lei. Loro due si sono trovati, hanno fatto un po' di mesi qua, in cui lei si è tirata fuori dalle sue paure, prendendosi proprio a carico Travis, questo setterino piccolino, cioè piccolino d'Italia, non degli etanzi, e si è preso carico di lui e ha iniziato a diventare la sua guida. Quindi questo ha fatto sì che lei si sentisse finalmente nel ruolo che forse voleva avere, quella di una che a lei piaceva gestire, le piace prendersi carico degli altri cani, e lui ha trovato in lei una guida. Quindi quando la cosa divertente è stata che questo cane, che sarebbe scappato da qualsiasi recinzione, dopo 2 settimane qua veniva libero in passeggiata, e lei non aveva mai fatto una passeggiata e veniva libera, ma appena, e poi lui chiedeva aiuto a lei e lei lo supportava e lo portava a farsi dei giretti nel bosco per dirgli allontanati un po', che sei un setter, un po' vai a annusare. Lui andava e se io magari ero nel gruppo mi distraevo un attimo, lei mi si bloccava, si sedeva, mi guardava, io capivo che Travis era rimasto nel bosco, quindi dicevo: Marghe, lo vai a prendere? E lei partiva nel bosco, lo andava a prendere e lo riportava nel gruppo. Entrambi i cani sono stati adottati in situazioni ovviamente adatte al loro contesto, e Travis va in vacanza, in Corsica, ovunque, sempre libero, esce dal cancello perché è piccolino, quindi esce dall'inferiata, si va a fare su giro nella campagna, torna quando vuole. E loro due hanno fatto proprio un percorso senza che gli ci dice magari avrebbero dovuto andare in adozione insieme, ma assolutamente no, loro hanno fatto un percorso assieme e si sono in qualche modo supportati in questo periodo, e hanno trovato chi erano, cosa volevano essere, e dopo sono stati pronti per un'adozione. Stupendo, veramente. Viene voglia di venirvi a trovare e penso, spero che troveremo il modo di farlo, insomma. A questo proposito volevo sapere se puoi dirci quali sono le modalità per potervi supportare. Guarda, noi in questo momento stiamo appunto cercando volontari di vario tipo. Sia che ci possono aiutare regolarmente una volta a settimana, ma anche con coinquilini, perché da tra un po' alcune persone qua se ne andranno, quindi dobbiamo riformare un pochino il team. E persone che hanno delle abilità specifiche, che hanno voglia di venire anche una volta ogni tanto, quindi volontari fisici, molto volentieri ci vogliono contattare tramite mail che trovano, o comunque il mio contatto telefonico lo trovano facilmente tramite la pagina Facebook. E poi ovviamente finanziamenti, noi ci autofinanziamo, non abbiamo nessuno, cioè non abbiamo fondi da vari enti, noi ci autofinanziamo, quindi sia partecipare alle nostre iniziative, seminari, che raccolte fondi, donazioni, acquisto di gadget, poi abbiamo anche possibilità di fare il 5 per 1000, abbiamo sempre il codice fiscale scritto nella copertina Facebook. E teaming, che è un gruppo in cui tu ti iscrivi sicuro, che puoi supportare diverse realtà, e donando 1 euro al mese, quindi non c'è bisogno che uno se lo ricordi, con 1 euro al mese scrivendo Rifugio Riot Dog ci possono supportare anche in questo modo, quindi diciamo costa niente, però se sei in tanti si riesce a fare tanto. Certo. E allora forza con il supporto a Riot Dog, a Francesca, perché è veramente un progetto, devo dire, ambizioso, però ce lo racconti con una tale semplicità che sembra veramente tutto possibile, però io ti faccio i miei complimenti, perché è veramente un anche solo guardare i video dei cani che passeggiano sulla collina rende veramente tutto meraviglioso, è tutto meraviglioso, quindi complimenti Francesca, complimenti a tutto lo staff di Riot Dog e a questi cani veramente Riot. E Michele, allora ti aspettiamo presto. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora io ti ringrazio Francesca, per questa sera è tutto, e ci vediamo, poi ci sentiamo al prossimo episodio, in bocca al lupo per tutto. Grazie, buona serata. Grazie. Ciao.